ad alta voce. Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Convenuto diluviò. Alle 11 un uomo in impermeabile con al seguito un tosaerba bussò alla porta e disse che era stato mandato dal signor Gatsby per tagliare il mio prato. Mi sovvenne allora che avevo dimenticato di dire alla mia finlandese di tornare, così dovetti andare in macchina al villaggio di West Egg per cercarla tra i vicoli imbiancati a calce e fradici di pioggia, nonché per comprare qualche tazza, dei limoni e un po' di fiori. I fiori si rivelarono superflui perché alle 2 arrivò una serra intera da parte di Gatsby, con tanto di innumerevoli contenitori dove sistemarla. Un'ora dopo la porta si aprì nervosamente e Gatsby, in completo di franella bianca, camicia argento e cravatta dorata, fece il suo trafelato ingresso. Era pallido e con i segni scuri dell'insonnia sotto gli occhi. «È tutto a posto?» chiese immediatamente. «Adesso l'erba fa la sua figura, se è a questo che alludi.» «Che erba?» si informò con tono assente. «Ah, l'erba del giardino!» Guardò fuori dalla finestra, ma a giudicare dalla sua espressione non credo abbia visto alcunché. «Sì, ha davvero un bell'aspetto», osservò vago. «Su un giornale dicevano che dovrebbe smettere di piovere intorno alle 4, credo fosse The Journal. Hai tutto quello che occorre per un tè?» Lo condussi nella dispensa, dove scrutò con sguardo un po' critico la mia finlandese. Esaminammo insieme i 12 muffin al limone presi in pasticceria. «Andranno bene?» ma certo, sono stupendi!» E in tono forzato aggiunse «Vecchia lenza!» Intorno alle 3:30 la pioggia si affievolì, divenendo una nebbiolina umida, punteggiata come rugiada da sparute gocce sottili. Gatsby scorreva con occhi persi una copia dell'Introduzione all'economia di Clay, trasalendo ai passi della finlandese che facevano tremare il pavimento della cucina e sbirciando di quando in quando verso le finestre, come se all'esterno stesse verificandosi una serie di fatti invisibili ma comunque allarmanti. Infine si alzò e mi informò con voce di certa che sarebbe tornato a casa. «E perché mai?» «Non verrà nessuno a prendere il tè, è troppo tardi.» Guardò l'orologio come se qualcosa di urgente reclamasse la sua presenza altrove. «Non posso aspettare tutto il giorno.» «Non essere sciocco, mancano solo 2 minuti alle 4.» Tornò a sedersi, sconsolato, come se l'avessi spinto a forza sulla poltrona, e in quello stesso istante si udì il rumore di un'auto che svoltava verso casa. Scattammo entrambi e uscii in giardino, un poco stravolto anch'io. Sotto gli alberi di lillà, spoglie e gocciolanti, un'auto grande e aperta stava risalendo il vialetto d'accesso. Si arrestò. Il viso di Daisy, inclinato di lato sotto un cappello a 3 punte color lavanda, mi guardò con un sorriso luminoso ed entusiasta. «È dunque qui che abiti, mio adorato?» L'euforizzante gorgoglio della sua voce fu un tonico fantastico sotto quella pioggia. Ne dovetti seguire il suono per un momento, su e giù, con l'orecchio soltanto, prima di capire il significato di qualunque parola. Una ciocca di capelli bagnati le solcava la guancia come un tocco di blu, e la sua mano era cosparsa di spruzzi scintillanti quando la presi per aiutarla a scendere dall'auto. «Ti sei innamorato di me», mi disse piano all'orecchio. «Altrimenti perché mi hai chiesto di venire sola?» «È il segreto del castello di Raycrant. Di' al tuo chauffeur di allontanarsi per un'ora.» «Torna tra un'ora, Ferdi.» Quindi con un mormorio grave. «Si chiama Ferdi.» «La benzina gli dà problemi al naso?» «Non credo», disse lei ingenuamente. «Perché?» Entrammo in casa. Con mia grandissima sorpresa il soggiorno era deserto. «Beh, questa è bella», esclamai. «Bella?» Voltò il capo perché si udì bussare alla porta d'ingresso con colpi leggeri ed educati. Andai ad aprire. Gatsby, bianco come un cadavere, le mani sprofondate come pesi nelle tasche della giacca, se ne stava lì in una pozza d'acqua fissandomi negli occhi con aria tragica. Le mani sempre in tasca, varcò la soglia, sfilandomi accanto con passo cauto, si voltò di scatto come camminasse su un filo e sparì nel soggiorno. Non fu affatto divertente. Consapevole di quanto forte mi battesse il cuore, chiusi la porta alla pioggia che aveva ripreso di intensità. Per mezzo minuto non ci fu il benché minimo rumore. Poi, proveniente dal soggiorno, mi giunse alle orecchie una sorta di mormorio soffocato e parte di una risata seguita dalla voce di Daisy. Il tono era limpido e affettato. «Sono così felice di rivederti.» Una pausa. Si protrasse in maniera orribile. Non avevo nulla da fare nell'ingresso, per cui andai in soggiorno. Gatsby, le mani ancora nelle tasche, era appoggiato alla mensola del camino. La postura era una tesa contraffazione della spigliatezza più assoluta, se non addirittura della noia. Il capo era così piegato all'indietro da riposare sul quadrante di un orologio ormai defunto, e da quella posizione i suoi occhi stravolti erano fissi su Daisy, che sedeva spaventata, ma comunque con grazia, sul bordo di una sedia dal disegno severo. «Ci conoscevamo già», bofonchiò lui. Mi guardò di sfuggita e di schiuse le labbra in un tentativo di ridere subito abortito. Per fortuna l'orologio approfittò di questo momento per inclinarsi pericolosamente sotto la pressione della testa, al che Gatsby si voltò e l'afferrò con dita tremanti e lo risistemò al suo posto. Poi si mise a sedere, rigido, il gomito sul bracciolo del divano e il mento nella mano. «Scusa per l'orologio», disse. Il mio viso, invece, aveva ora assunto un colorito da ustione tropicale. Non mi riuscì di fare appello a nemmeno una delle migliaia di frasi fatte che avevo in testa. «Non importa, è un vecchio aggeggio», dissi loro come un idiota. Credo che per un istante fummo tutti convinti che l'orologio si fosse fracassato in mille pezzi sul pavimento. «Non ci vedevamo da molti anni», disse Daisy, la voce più anodina possibile. 5 anni il prossimo novembre». Il modo automatico in cui Gatsby aveva replicato ci paralizzò tutti per un altro minuto almeno. Li avevo fatti alzare con la disperata scusa di aiutarmi a preparare il tè in cucina, quando la demoniaca finlandese si presentò con il vassoio. Nel gradito trambusto di tazze e piattini un certo qual decoro riuscì a ristabilirsi. Gatsby si defilò, e mentre io e Daisy parlavamo, ci studiava scrupolosamente, prima me, poi lei, coi suoi occhi ansiosi e infelici. Comunque, dato che lo scopo della faccenda non era certo mantenere la tranquillità, colsi al volo la prima occasione per alzarmi e scusarmi. «Dove stai andando?» domandò Gatsby subito in allarme. «Torno tra un attimo. Prima devo parlarti di una cosa». Mi seguì, trafelato in cucina, chiuso la porta e bisbigliò. «Oddio», in tono affranto. «Cosa c'è che non va?» «È un terribile sbaglio», disse scuotendo il capo. «Un terribile, terribile sbaglio». «Sei soltanto imbarazzato, tutto qua». E per mia fortuna aggiunsi. «E lo stesso vale per Daisy». «È imbarazzata», ripeté incredulo. «Tanto quanto te. Non parlare a voce così alta. Ti stai comportando come un ragazzino», proruppi spazientito. «E non solo, sei anche maleducato. Daisy è seduta di là, tutta sola». Sollevò la mano per fermare le mie parole, mi guardò con biasimo indimenticabile e, aperta con cautela la porta, tornò nell'altra stanza. Uscii dalla porta sul retro, proprio come Gatsby poco prima, quando aveva fatto il suo nervoso giro della casa, e corsi in direzione di un enorme e notoso albero nero il cui fitto fogliame costituiva un efficace riparo dalla pioggia. Stava diluviando di nuovo e il mio prato irregolare, ben rasato dal giardiniere di Gatsby, era un fiorire di piccoli acquitrini fangosi e paludi preistoriche. Non c'era nulla da guardare da sotto l'albero, fuorché l'immensa casa del mio vicino, così la fissai, come faceva Kant col campanile della sua chiesa, per una mezz'ora. Era stata costruita da un produttore di birra quando era esplosa la moda delle costruzioni d'epoca, un decennio prima, e stando a una storia che si raccontava, si era dichiarato disposto a pagare 5 anni di tasse a tutti i villini circostanti se i proprietari avessero coperto di paglia i tetti. Forse il loro rifiuto inflisse un colpo ferale al suo proposito di fondare una famiglia. Il birraio conobbe un declino immediato. I figli vendettero la casa con la ghirlanda nera ancora appesa alla porta. Gli americani, sebbene all'occasione inclini a farsi servi, sono sempre stati ostinati nel non passare per dei contadini. Dopo mezz'ora il sole tornò a splendere e l'auto del droghiere imboccò il viale di Gatsby portando ai domestici la materia prima per la cena. Ero convinto che lui non l'avrebbe neanche assaggiata. Una cameriera cominciò ad aprire le finestre di piani più alti, fece una rapida apparizione in ognuna di esse e sporgendosi dal bovindo centrale, assorta nei suoi pensieri, sputò sul giardino. Era tempo che tornassi. Nella pioggia che cadeva mi era parso di udire il mormorio delle loro voci salire ed enfiarsi un poco di quando in quando con folate di emozione, ma nel silenzio poi sopraggiunto ebbi la sensazione che quello stesso silenzio fosse calato anche in casa. Entrai dopo aver fatto ogni rumore possibile in cucina fuorché ribaltare la batteria di fornelli, ma non credo avessero sentito alcunché. Sedevano alle opposte estremità del divano, guardandosi negli occhi come se una qualche domanda fosse stata appena posta o aleggiasse nell'aria, e qualunque traccia di imbarazzo era scomparsa. Il viso di Daisy era rigato di lacrime, e quando apparvi balzò in piedi e cominciò ad asciugarsi con un fazzoletto davanti ad uno specchio. Ma in Gatsby c'era stato un mutamento a dir poco sconvolgente. Ardeva, nel senso letterale del termine. Pur in assenza di una qualunque parola o altra manifestazione di giubilo, un nuovo benessere si irradiava dalla sua persona e illuminava la piccola stanza. «Ehi là, vecchia Lenza!» disse, come se non mi vedesse da anni. Per un momento mi venne da pensare che stesse per stringermi la mano. «Ha smesso di piovere?» «Davvero?» Quando si rese conto di cosa stavo parlando, che lo sfarfallio del sole inondava la stanza, sorrise come l'uomo delle previsioni del tempo, come un estasiato patrono della rinata luce, e ripeté la notizia a Daisy. «Cosa ne pensi? Ha smesso di piovere?» «Ne sono felice, Jay.» Quella gola, piena di una bellezza dolente e afflitta, parlava solo della sua gioia in attesa. «Voglio che tu e Daisy facciate un salto da me», disse. «Vorrei mostrarle la casa. Vuoi davvero che venga anch'io?» «Assolutamente, vecchia Lenza.» Daisy salì di sopra per lavarsi il viso. Solo ora mi rammentai, mortificato, degli asciugamani, mentre io e Gatsby aspettavamo sul prato. «È proprio bella casa mia, non trovi?» domandò. «Guarda come l'intera facciata cattura la luce.» E convenni che era uno splendore. «Sì.» I suoi occhi la passarono in rassegna, soffermandosi su ogni singola porta d'arco e sulla torre quadrata. «Mi ci sono voluti 3 anni per guadagnare i soldi per comprarla.» «Pensavo che i tuoi soldi li avessi ereditati.» «Infatti, vecchia Lenza», disse in modo automatico, «ma li ho persi quasi tutti nel grande panico, il panico della guerra.» Penso che a malapena si rendesse conto di quanto stava dicendo, perché quando gli chiesi di quale genere di affari si occupasse, rispose «affari miei», prima di rendersi conto che non era la risposta appropriata. «Ma mi sono occupato di parecchie cose», si corresse. «Ho fatto affari nel settore farmaceutico e poi nel petrolio, ma adesso li ho abbandonati entrambi.» Mi guardò con più attenzione. «Vuoi dirmi che hai ripensato alla proposta dell'altra sera?» Prima che potessi rispondere, Daisy uscì di casa e 2 file di bottoni d'ottone sul suo vestito scintillarono alla luce del sole. «È quel posto enorme, casa tua», esclamò col dito puntato. «Ti piace?» «È meravigliosa, ma non so come fai a viverci tutto solo.» «Mi adopero affinché sia sempre piena di gente interessante, notte e giorno. Persone che fanno cose interessanti, gente famosa.» Anziché prendere la scorciatoia lungo lo stretto, ci avviammo per la strada ed entrammo dalla grande porta secondaria. Coi mormorii incantevoli, Daisy ammirò questo o quell'altro aspetto della feudale silhouette che si stagliava contro il cielo, ammirò i giardini, l'odore frizzante delle giunchiglie e l'odore schiumoso del biancospino e i susini in fiore e la fragranza d'oro pallido del caprifoglio. Fu strano raggiungere la scalinata di marmo e non vedere un trambusto di abiti vistosi che entravano e uscivano dalla porta e non udire alcun suono se non il canto degli uccelli tra gli alberi. E all'interno, mentre vagavamo per le sale da musica in stile Maria Antonietta e i salotti in stile restaurazione, ebbi la sensazione che ci fossero ospiti nascosti dietro ogni tavolo e divano, con l'ordine di non fiatare finché non fossimo passati oltre. Quando Gatsby chiuse la porta della Merton College Library, avrei potuto giurare di udire l'uomo dagli occhi da civetta prorompere in una risata spettrale. Salimmo di sopra e visitammo stanze da letto, anch'esse con arredi d'epoca e fasciate di seta rosa e lavanda e ravvivate di fiori freschi, e poi spogliatoi e sale da biliardo e stanze da bagno con vasche infossate. Irrompemmo anche in una camera dove un tipo scarmigliato in pigiama stava facendo esercizi per il fegato sul pavimento. Era il signor Clip Springer, il pensionante. Lo avevo visto aggirarsi con aria famelica sulla spiaggia proprio quella mattina. Infine entrammo nell'appartamento privato di Gatsby, costituito da una stanza da letto, un bagno e uno studio in stile Adam, dove ci sedemmo a bere un bicchiere da una bottiglia di Chartreuse che lui estrasse da una dispensa a parete. Non aveva mai staccato gli occhi da Daisy, che molto amava. E credo che stesse rivalutando ogni dettaglio della sua casa alla luce delle reazioni che leggeva negli adorati occhi di lei. A tratti, inoltre, si guardava attorno e fissava le sue cose come sbalordito, quasi che la strabiliante presenza in carne e ossa di Daisy le rendesse tutto irreale. In un'occasione fu quasi sul punto di cadere da una rampa di scale. La sua stanza era la più sobria di tutte, fatta eccezione per la toeletta, attrezzata con un servizio laccato di un oro puro dalla tonalità spenta. Deliziata, Daisy prese la spazzola e si lisciò i capelli, al che Gatsby si mise a sedere, si coprì gli occhi e cominciò a ridere. È vecchia lezza. È la cosa più buffa, disse divertito. Non posso... Se cerco di... Era chiaramente passato attraverso due fasi e stava ora entrando in una terza. Dopo l'imbarazzo e la gioia irrazionale, si struggeva di meraviglia per la presenza di lei. Aveva cullato l'idea per tanto di quel tempo, l'aveva sognata in tutto il suo svolgersi, attesa a denti stretti, per così dire, con un'intensità di grado inconcepibile. Adesso, per reazione, si stava scaricando come un orologio con la molla tirata al massimo. Dopo un attimo si riprese e aprì per noi due massicci armadi rivestiti di pelle, al cui interno erano ammassati i suoi completi, le vestaglie, le cravatte, le camicie, impilate come mattoni in mucchi di 12. «C'è una persona in Inghilterra che mi compra i vestiti, mi spedisce una selezione di articoli all'inizio di ogni stagione, primavera e autunno». Estrasse una pila di camicie e cominciò a lanciarle verso di noi, una per una. Camicie di cotone leggero, di seta pesante e di ottima flanella, che persero la piega nel cadere e coprirono il tavolo di una baraonda multicolore. Mentre eravamo intenti ad ammirare, lui seguitava ad alimentare la soffice montagna di tessuti pregiati. Camicie a righe, a scacchi, con altre fantasie color corallo, verde, mela, lavanda, arancio pallido e con monogrammi indaco. D'un tratto, con un suono innaturale, Daisy chinò il capo tra le camicie e cominciò a piangere a dirotto. «Sono camicie bellissime», disse tra i singhiozzi, la voce annegata nel mare di stoffa. «Mi mettono tristezza perché non ho mai visto camicie così... camicie così belle, prima d'ora». Dopo la casa avremmo dovuto vedere il parco e la piscina e poi l'idrovolante e i fiori di mezz'estate. Ma fuori dalla finestra della stanza di Gatsby aveva ripreso a piovere, così ci mettemmo tutti e tre in fila a contemplare la superficie ondulata dello stretto. «Non ci fosse foschia, si vedrebbe la tua casa di là dalla baia», disse Gatsby. «C'è sempre una luce verde accesa tutta la notte all'estremità del pontile». D'improvviso Daisy lo prese sotto braccio, ma lui parve tutto assorto in quel che aveva appena detto. Può darsi fosse stato colto dal pensiero che il significato colossale di quella luce era adesso svanito per sempre. In confronto alla grande distanza che lo aveva separato da Daisy, gli era parso che quella luce fosse vicina a lei, così vicina da poterla quasi toccare. Gli era sembrata vicina quanto una stella alla luna. Adesso era di nuovo una luce verde su un pontile. Il numero dei suoi oggetti incantati era diminuito di uno. Cominciai a camminare per la stanza, esaminando vari oggetti confusi nella penombra. Fui attratto dalla grande foto di un uomo anziano in tenuta nautica, appesa alla parete dietro la scrivania. «Chi è?» «Quello? Quello è Denko di vecchia lenza. Il nome mi suonò vagamente familiare. Ora è morto, era il mio migliore amico anni fa». Sullo scrittoio c'era un piccolo ritratto di Gatsby, anche lui in tenuta nautica. Un Gatsby in posa spavalda, con la testa gettata all'indietro, all'apparenza immortalato intorno ai 18 anni. «Che meraviglia!» esclamò Daisy. «Il Pompadour! Non mi hai mai detto che avevi un Pompadour o uno yacht?» «Guarda questo», si affrettò a dire Gatsby. «Ci sono un sacco di ritagli di giornale. È su di te». Thank you. restarono fianco a fianco a sfogliare l'album. Ero sul punto di chiedere di dare un'occhiata ai rubini quando squillò il telefono e Gatsby sollevò il ricevitore. Sì, non posso discuterne adesso. Non posso discuterne adesso, vecchia Lenza. Ho parlato di una piccola città. Dovrebbe sapere cosa si intende con piccola città. Lui non può esserci utile in nessun modo. Se Detroit corrisponde alla sua idea di piccola città... Riattaccò. Vieni qui, presto, urlò Daisy alla finestra. La pioggia cadeva ancora. Ma verso ovest si era aperto uno squarcio nel buio del cielo e una soffice voluta di nubi rosa e dorate dominava la mare. Guarda, sussurrò, e un istante dopo aggiunse: mi piacerebbe prendere una di quelle nuvole rosa e mettertici sopra e farti fare un giro. A quel punto tentai di andarmene, ma non ne vollero sapere. Forse la mia presenza li faceva sentire più piacevolmente soli. Ho un'idea, disse lui. Diciamo a Clip Springer di suonarci qualcosa al pianoforte. Uscì dalla stanza chiamando Ewing e ritornò nel giro di pochi minuti accompagnato da un giovanotto imbarazzato e un po' male in arnese che aveva un paio di occhiali con la montatura di tartaruga e una rada capigliatura bionda. Adesso era decorosamente abbigliato con una camicia sportiva aperta sul collo, scarpe da tennis e pantaloni di olonetta dalla tonalità incerta. «Abbiamo interrotto la vostra ginnastica», si informò Daisy con garbo. «Stavo dormendo», esclamò il signor Clip Springer in un accesso di imbarazzo. «Cioè, stavo dormendo fino a poco fa, poi mi sono alzato». «Clip Springer suona il piano», disse Gatsby interrompendolo. «Non è così, Ewing, vecchia Lenza». «Non suono bene, cioè, suono per modo di dire e sono pure del tutto fuori...» «Andiamo di sotto», tagliò corto Gatsby. Premette un interruttore. Le finestre grigie svanirono non appena la casa avvampò di luce. Nella sala da musica Gatsby accese una lampada solitaria accanto al piano, quindi accese una sigaretta a Daisy con la tremula fiamma di un cerino e si sedette con lei su un divano sul lato opposto della stanza, dove non c'era luce alcuna se non quella riflessa dallo scintillante pavimento dell'atrio. Dopo aver eseguito The Love Nest, Clip Springer roteò sul panchetto e diresse uno sguardo infelice verso la penombra in cerca di Gatsby. «Lo vedi, sono completamente fuori esercizio, te l'ho detto che non sapevo suonare, sono fuori...» «Parli troppo, vecchia Lenza!» lo ammonì Gatsby. «Suona!» Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear, we haven't a car... Fuori il vento era forte, e dallo stretto giungeva fioco un susseguirsi di tuoni. A West Egg si andavano accendendo tutte le luci. I treni elettrici provenienti da New York avanzavano veloci sotto la pioggia per riportare a casa il loro carico di uomini. Era l'ora di un profondo cambiamento umano e nell'aria cresceva l'eccitazione. Still we have fun. There's nothing surer. The rich get richer and poor get poorer. In the meantime, in between time, ain't we got fun? Quando mi avvicinai per congedarmi, mi accorsi che sul volto di Gatsby era ricomparsa quell'espressione di sconcerto, come se l'avesse sfiorato un vago dubbio circa la consistenza della sua ritrovata felicità. Quasi 5 anni. Dovevano esserci stati momenti, fino anche in quel pomeriggio, in cui Daisy non si era dimostrata all'altezza dei suoi sogni, senza averne nessuna colpa, ma solo per via della colossale vitalità delle sue illusioni, illusioni che andavano al di là di lei, al di là di qualunque cosa. Gatsby ci si era tuffato con una passione creativa, alimentandole in continuazione, agghindandole di ogni piuma splendente che il vento gli portava. Non c'è fuoco né freschezza che possa sfidare ciò che un uomo serba nel suo cuore spettrale. Mentre lo guardavo, lui si riprese un poco, visibilmente. Strinse le mani di Daisy nelle sue e mentre lei gli diceva qualcosa, piano, all'orecchio, lui si voltò in un impeto d'emozione. Credo che più di tutto fosse la voce a tenerlo avvinto, col suo fluttuante, febbricitante tepore, perché nessun sogno poteva essere la sua altezza. Quella voce era una canzone immortale. Si erano dimenticati di me, ma Daisy alzò gli occhi e tese la mano. Gatsby, adesso non mi riconosceva più. Li guardai un'altra volta, e anche loro mi guardarono, lontani, soggiogati dall'intensità della vita. Quindi uscii dalla stanza e discesi la scalinata di marmo sotto la pioggia, lasciandoli là, insieme. Even if we owe the grocer, don't we have fun? Tax collectors getting closer, what fun! There's nothing sure.